quindi era sempre meglio precisare, a meno che in modo che lo senta bene, di non rompere i coglioni. Proprio detto in parole povere. Hai capito, Popo? Non è che voglio fare, non è che voglio essere polemico qualcosa, voglio dire quello che è giusto. Quello che è giusto, perché queste cose a me non mi sono mai piaciute, eppure sono stato accusato, cose che io mai me lo sognerei di fare perché sono contrario. Io la radio me l'ho comprata per parlare, non per un brutto, non per non fare parlare brutto, anche se iniziano mette in mezzo. Quando gliel'ho fatto qualcuno gliel'ho fatto davanti e mi ha pure visto, ma mi sono fatto anche vedere, mica avanti il due come. Gliel'ho anche detto, glielo, non mi sono occupato, gliel'ho fatto proprio apposta, proprio perché mi stavo rompendo le palle più di un mese che io stavo mettendo la portante. E poi già ho capito chi era, ma se non capisci. Lui ha. Io te lo trapichi io da fuori, quando non vedi quello che è stato, dice succhia, succhia. Fa fare cibo! Che bisogna fare? E lo fate adesso e poi ci ciuccia, ciuccia. Ma noi, con voi, papà Poveri, che no, per essere molto precisi, per io sono una persona un pochettino precisina, anche se sembro un, come si posso dire, sembro così, ma non lo sono, così sono molto preciso, hai capito, su certe cose. Già lo so, preoccupato. Sto pensando proprio a chi da chi da questo, no? Sto pagando. Oh, io, ma che cosa ti dico? Ricca, ricca. Sento la voglia di correre in un posto piccolo. È la voglia di correre? Dove, dove? Un posto piccolo. Lucioschi, da chi mi chiede? Me la devo fare ciucuccio. Che ciucuccio, ciucuccio, capisci, non posso più. Non cosa accende, e ci che vado. Mi raccomando, non sforzarti molto, Saluto di piedi. Per carità. Io le faccio sempre una passata lì di piastra, veloce veloce, da una grigliatina e via, ma bollite la verità mai. Guarda, bolliti, ce l'ho messo io, mi piaccio quello che ho fatto, no? E si piacciono lo stesso. Capito? Si tratta, no? Buona sapersi, guardate che il sugo sia uscito buono. Va bene, dai, ti lascio veloce così mangio anche io qualcosa, dai. Sentiamo se c'è. Sì, ci sentiamo, dai, a dopo Antonello. Ehi, a dopo, non c'è problema. Ehi, ciao, popo.